Per AMD il discorso della piattaforma è una cosa direi nuova, no, non dico nuovissima, ma abbastanza nuova. Mentre prima appunto parlavamo solo di processori, da quando abbiamo acquisito ATI abbiamo cominciato a integrare l'offerta di processori con le schede grafiche, con i chipset. Oggi annunciamo una soluzione completa, mentre prima avevamo dei pezzi separati, quindi abbiamo annunciato prima la CPU, poi la grafica, poi il chipset, oggi annunciamo tutto insieme. E quella che in codice abbiamo chiamato Puma. Ed è sostanzialmente composta dalla CPU Turion Ultra, Turion X2 Ultra, il chipset 780, la famiglia 780, più la grafica della ATI, la famiglia 3200. Perché facciamo questo? Perché in effetti sempre di più l'utilizzo del computer, del notebook, così come il desktop, non è più un utilizzo, diciamo così, casuale, ma è sempre più legato all'esperienza che l'utente finale vuole avere dal computer, quindi guardare dei film, ascoltare la musica, scaricare da internet, rielaborare informazioni grafiche, quindi è sempre più legato all'utilizzo, giocare. Insieme alla nuova piattaforma introduciamo anche il concetto di HD computing, quindi di utilizzo del notebook per, diciamo così, usufruire dei contenuti ad alta definizione, che possono essere video o possono essere anche altre cose. Contenuti a alta definizione che fanno uso della CPU, ma nel caso di AMD fanno uso anche di altri, diciamo così, pezzi di architettura o di tecnologie che rendono l'alta definizione più facile da usufruire, migliora la qualità, ma senza pesare troppo sulla CPU, quindi sulla potenza dissipata della CPU. Quindi noi con questa nuova piattaforma siamo in grado di dare una ottima qualità grafica per applicazioni multimediali, per i giochi, ma allo stesso tempo ridurre notevolmente il consumo di potenza, quindi allungare la durata della vita delle batterie.